grande coro di persone. Torino vuol dire Napoli che va in montagna. Torino è un dirigibile verso la Spagna. Ha detto che non sei bella, antica, quando la sera diventi stella. Non parli perché hai paura di sapere troppo. Grande di persone, Torino è l'altra faccia della stessa Roma. Torino, un pugno al cielo di terra buona. Malata di malinconia.